preso nel restarmene sospeso, nell'attimo legittimo e preteso di stare nel silenzio, la mente come assenzio, nel vano spazio umano che presenzio, lontano dall'essere che siamo, spinti da meccanismi che viviamo, bisogni e sogni come fumo, il movente del consumo. Sono cose pretenziose, le distrazioni che appartengono ad un imago effimero e mi nutrono volubili pensieri mutevoli di speranza e fantasia che inventi mestrosità all'ingegno. Al tangibile reale, esistere di vivere e di stare, inerme, incustodito, né protetto, né agguerrito, nell'innocente ingenuo mio appetito, tra quelle cose confezionate ad arte, con opera di abili mani astute scaltre, si perdono l'essenza, l'esistenza e il senso di presenza. Sono cose pretenziose, le distrazioni che appartengono ad un imago effimero e mi salvano volubili pensieri mutevoli di speranza e fantasia che inventi mestrosità all'ingegno. E la volontà desiste. E la volontà desiste. E la volontà desiste. E la volontà desiste.